Attenzione, binario 23, cambio. Che può essere, non lo so io. Ma, buonasera. A sembra buona la sera. Con freschezza, tranquilli, va. Io che ve la prezzo così. Allora, cosa mi racconti oggi? Il materiale male è oggi. Attenzione, bene, no? Sempre le stesse cose, va. No, a ciambando. Ma adesso non penso che vado a ciambare io, ma no. Non anda. Ma sta arrivando il caldo, sta arrivando le grosse temperature. Infatti. Fate così. Preparati, piglia dell'ombrellone che andresti, a chi arriva il drugaggio. Ah, è già arrivato. Quanto ha di peccato? Poi la sera ci si fa la gru fresco. E non si sa. Che non si sa, col guaggio infatti un tanto la di la sera a casa lo mattesi. La notte è peggio. La notte è un mattone notte lui, 18 gradi. Cada di notte. Allora, la notte è buono per 18. Ma si stava bene, va. Insomma, 30 euro per appoggiare il braccio. Che sono per il resto, ma c'è tappati. Certo. Io mi sono coperto le gambe perché ho sempre freddo alle gambe, capito? E per cui mi tappo sempre là che sono tranquillo. Fate così. Ma sono tappati, siamo tranquilli così. Bene, bene. Cazzo, uscendo bene. Sono tranquillo? Sì, abbastanza. Sto usando quello preciso al tuo. Come io lo stavo usando adesso, sono in ascolto. Ragazzi, lo stavo usando. Prima attaccagli un microfono, ma oggi fa tratto un chiedo. E perché non si funziona bene questo preciso al mio? Sì, no, devo staccare il microfono da questo e attaccarlo lì. Ah, ecco. Ma a me è venuta la gara di attaccagli stasera, insomma, almeno ogni tanto anche a questo bisogna andare a mangiare, dai. Ma vedi, c'è un bel caldo, ecco cosa è, sarà pronto barabadina. Esatto, ancora presto a mettersi la pentola sopra, per cui si può usare, dai. Si mettiamo la pentola, li mettiamo. Allora, cazzo, attacca isso, cazzo, è meglio. Cazzo, a provarlo. Attaccare quello voi. Non vai, perché va tutto canto. Cazzo, una volta ogni tanto devi attaccarlo, no? Aspetta un attimino, che ce ne tolgo tutto da sopra. Cazzo, mica non sei zappato sul culo come c'è che culo. Se non entra più, Maru. più, anche questo è coperto, c'ho un pelo, è coperto sempre, per cui polvere non è ciò, cazzo è pelucido. Aspetta un attimo, sto staccando qua. Chi si muove? Sono qua già. C'è come sta della cadria. Prova a vedere. Ecco, 1, 2, 3, prova, già va bene, ciò, a voi. Certo, questo è più, è la radio più chiara, perché c'è il microfono suo, no? No, quello amplificato, MP4, cioè. Sembra il microfono normale con questa radio. Però è chiara, la radio è chiara. Questo deve essere che non amplifica, con questa cosa. No, beh, va bene, dai, è bella chiara, è abbastanza buona, dai, per cui. E ogni tanto che non l'accendevo, pensa un po', anche se scalda, che se ne frega, già si raffredda la buca in studio. Scalda subito, scalda questo. Adesso mi preparo la badetta. Con gli spaghetti, se ne fanno gli spaghetti dentro. E lo da me, anche il marito, per i cucinetti, la sigla di sotto, quando ce l'ha io, ce l'ho S4, poi hanno F ed R ed RI. Boh, la sigla sotto com'è la tua? No, non ho capito nulla di cosa mi ha detto Gian Maria. Sotto c'è una sigla, no? S4, così è, ce l'hai tu? No, oh, io sono su M4, ce l'ho. Sono su M4. Ah, M4, io ce l'ho S4. E cosa bisogna fare per mettere M4 tu? Sul menu lo sposti, se no va sul display e te lo porti sulla M1, M2, te lo porti su M1, portatelo. Vai sul display. Aspetta, allora sul menu devo andare. Sul display vai prima. E te lo porti su M1. Allora, e quel caso è sul display. Il primo e il secondo. Il primo è il menu. Il primo è il menu, vai sul display. A destra. Quel caso è il terzo o il quarto? Poi vai su M4 nel menu. Aspetta, non riesco a metterlo per sé, per S4 ce l'ho. Su M4? E infatti, non riesco a metterlo a punto, sto. Ah, lascialo così, tanto non gli fa nulla. Va bene, sto uscendo, sì? A voglia. Cazzo, Radio 5 perfetta, sta uscendo bene. E allora lascio così, l'importanza è che mi ascolti bene, che sta uscendo bene, quello. Poi, o S4, o M4, che cosa fa? Non gli fa nulla. Tanto è sempre un mattino. No, già stai uscendo bene, lascialo così. Infatti, che è così, va bene così, va, a voglia. Mi saranno picche negative però, forse perché sono con due watt. No, a me mi stai arrivando, 9,60 mi stai arrivando. E tu sei lo stesso, Tom, lo stesso così, 9,60 sei anche tu. Però mi saranno picche negativi quando parlo, capito? Ma quanti facci c'hai? Sì, anche a me lo sta facendo, lo fa anche a me. Oh, ecco. È perché se io ho due facce, capito? Magari se lo metto allora se già va picchi positivi, capito? Sì, no, è lo stesso. A buia. Cazzo. Lo fate pure a me. Oh, allora va bene. Allora va bene ugualmente, là. Bene, bene. Su canale 23. Sì che siamo tranquilli, dai. La buia, ci siamo tranquilli, cazzo. Oh, da tanto che non la scendevo. Sì, me ne dimenticate che fa bianchi il buio. Ah, io me l'avevo tappato, mi l'avevo. Era tappato. Io ce l'ho davanti, questo è l'altro, è l'ultimo che ho preso, così che c'è il panno, così che uso sempre quell'altro. Da oggi te ci avete un po', ho tolto il panno da sopra, e mi sono trovato con lui, adesso lo accendo, e già sta funzionando bene ancora. E la buia si sta funzionando bene, certo, ma di così non funziona. Certo. Questi vecchi non si rovinano mai, questi vecchi, magari primi, magari si guastano prima, ma questi vecchi non è facile, no, altro materiale e tutto. È fatto così, a fare questo bisogna fare, certo. Anche come coso, zero stazionario. No, stazione appena si muove la tacchetta, la lancetta, ma appena si muove, anche io stazionare dove ho. Oh, anche qua, appena si muove. E più mi sta dando 6-7 watt mi sta dando. Oh, grazie. Certe volte, invece due volte. Attenzione, però, provo a metterlo a 7 volte a vedere un po'. Ecco, adesso a 7 volte ciò. Allora, ciò com'è? È perfetto. abbastanza più bene, è aumentato appena appena. Oh, e che ti fate? Ma era per bisogno, cosa. Basta due fatte, qua si fa due fatte. Prova a mettere due fatte per un po' come esce. E devo cercare, Gian Maria. Sono su M4 e qua non mi segna due fatte. No. Mi stai arrivando 60 e più. Vabbè, adesso ho messo due fatti, va benissimo. Va bene, tu vai. Cazzo, mica mi devo... In America io non mi sento. Andiamo, andiamo. Me lo metto. Raga, il parito, buonasera. No, non ci sto più entrando, non c'è più nessuno, cosa andrà a fare? Buonasera a tutti. Ma non vi siamo noi, vi siamo una sera noi. Ma io troppo guiscio, ci ha fatto la doccia. Sì, alla doccia sì. Ma ce l'ha sì. Adatte, che si è arrivati l'altro. Lì c'è la rabbetta di Lugoso. Mi si è fatto ogni sabato. Sono dietro la chiesa piccola. No, via ad un senno, ti cavolo si chiama. È la cosa del circolo. Eia. Ha già compreso. C'è la festa di tre giorni, c'è. Eia che sì. Ehi, stasera, domani e dopo domani. Chiappa, c'è. Ehi, andare. Avanti, Gian Maria. Ok, ciao, buonasera. Gian Maria, ti ho mandato un messaggio su WhatsApp. Non mi hai più risposto. Cosa? Ti avevo mandato un messaggio su WhatsApp, non mi hai più risposto. E quando? Basta guardare. Basta guardare. O tu mi stavi chiamando, ero impegnato, capito, con la foto. Ho mandato un messaggio e non mi ha risposto. Adesso guarda per un po'. Se l'hai mandato c'è, aspetta un attimino so. Ma è di, forse di giugno. Gio Maria, Gio Maria. Cazzo, è di maggio. 29 maggio, poi sa due. L'altra di 29 maggio, l'altra di Luca, l'altra di Non l'ha chiamato lui, io stavo con la patamona, capito? Meglio così. Salvo, per carità, una truffa. Oh, ma no, per giù a platamo. Facciamo uno spezzato, faccio una nuova vita. Entravo alle 10:30, uscivo alle 4:30, 5, poi riprendevo alle 7, e finivo all'una, alle 2 di notte. Andate. Andate di notte, ero un gaggio. Dice che eri in cucina, pensateci per il gaggio. Sì, già così. Vabbè. Io ho mandato un messaggio, io stavo lavorando, capito? Vedete, lui non l'ha sentito, non l'ha guardato. No, io pensavo che si fosse offeso, cosa ne so. Insomma, mi ha più chiamato, mi si potrebbe sentire. Sicuramente non l'ha sentito. Ecco cosa è, magari sono in silenzioso, non ho sentito il coso del messaggio. Sì, la più sicura, Infatti così. Non riesco a trovarlo, e ho intanto il suo telefono, dati i numeri, non l'ho trovato. Giovanni, pensavo che ti ho offeso, non si è fatto più sentire, non ho fatto nulla. Ti stavo mandando un messaggio per dire che stavo lavorando, capito? Che tu mi hai detto di farmi sapere, ti ricordi? Vabbè, ma cosa costa? Basta fare la telefonata. Io già lo sa che i messaggi non riesco a mandare, certe volte nemmeno i messaggi riesco a leggere, si può immaginare. Purtroppo sono fatto così, già lo sapevi. Già. Vabbè, ma molte volte mi chiamati su WhatsApp, ho capito. Vabbè, quando vuoi chiamo, non c'è problema. Ma non ci sono problemi anche per me, così che tranquillo. Ok, vai tu. Betto. Gian Maria. Cosa c'è? No, niente, ti ho rilanciato. Che tutto va bene. Ma di così non si buca. Luca è di se rilassena, va. Fatti bene. Se travagliere, fatti bene. No, Gian Maria, non sto più lavorando, sono fermo da un po' adesso. Sto facendo volontariato, capito? Però prima c'è il lavoro in primis, poi il volontariato arriva dopo. Meglio lavorare, quando fai un lavoro non bisogna passare. Quando lo lavoro è tranquillo. Buonanotte. Allora, con chi sei? faccio nel volontariato, con il 118. No, no, con le guardie, a Zoffia. Va bene, ma preso. Vabbè. Quando sei libero. Ma ti pagano, no? Sei volontariato, no? Siamo qua. Così Giovanni. L'importante che uno sia lavoro chi lo pagano, quella è la cosa importante. Non male quando non ti pagano, che tu travagli non ti pagano. Fate così. Bisogna lavorare quando c'è, già pigliarlo. Meglio travagliare che a baità. Fate così. Infatti, ce la facciamo così. Sì. E come deve funzionare? Purtroppo sì, diversamente non funziona un po'. Certo. Molte volte funziona bene, molte volte funziona male. Così che come fai a sapere che funziona bene un lavoro? Bisogna essere fortunati, bisogna avere canna. E infatti bisogna provarle, allora uno riesce a sapere se va bene o se va male, quello è tutto. Perché non sempre va bene su questi lavori così, manualmente, capito? Per carità. Lasciamo perdere. Chi ce l'ha ce lo deve tenere conto bene, almeno tranquillo. Fate così, bisogna far così. Che diversamente non può essere. Siamo in sali là. Oh, c'è un QRM a 7 sto. C'è un QRM a 7. Ma io me sto andando sempre, sì. Da me sto arrivando bene. Ah, ok. Giovanni, da te? A me lo stesso, 9,50 sì. Vabbè, anche voi siete fortissimi, dai. Allora, lascia vedere. Oh, stazionale, non naggio. Ha fatto un ottimo lavoro con l'antenna Fabrizio. Ha fatto un miracolo, cazzo. Che l'avevamo fatti, Sant'Enna. Va bene. E a te tu, bel ci sei arrivato. A voglia. Tu vado così, non si può. E allora, così funziona ancora. Così, purtroppo. Per carità. Ho già caso questa cosa. Signora mio. È buddente. E ciò se ne posso pulire la bavetta, e posso così là sopra i apparecchi. E questi devono scaldare se vuoi che funzionino bene. Aspetta, il GT5, gatta, che era favorare, tanto mi si bollente, gatta, poi c'era la carrozzeria e la miera, no. Tanto che di calcina, ma non c'è tanto calcina, più di chi ci calcina, Però era a vapore, doveva scaldare quello lì, ma questo non è a vapore, così che è scaldato ugualmente. Anche questo lo scalda. Infatti sento la ventola andando, che non va più. Io l'ho lasciata che sono come bisogno. Se c'è le cuffie non le sento nemmeno. Io quando sto parlando si sente la ventola. Ma vicino a Lecce si intende, a Puglia si intende. Caro Luca. Mamma mia, si sente la ventola del coso, dell'alimentatore? Non credo, perché prima sì. Sono quegli alimentatori, quelli cinesi, mi. Poi l'ho preso su internet, l'ho preso dai cinesi. Sembra più massiccio come scheda tutto quanto. Praticamente nella vetro ho messo una resistenza e gli ho abbassato i giri. Ma tu vedi, no, io l'alimentatore è normale. Non è caldo, è appena tipico. Apparecchio e buddendo. Questa qua vabbè, adesso non ha scippato, lascia vedere. Non è manco qua, lei c'ho il 3009. Ma questo apparecchio è una bombetta, perfetto. Se va come deve andare, che non dà problemi, è una bombetta, bello, nuovo perché quando mi arriva tutto graffiato, dalle foto non si vedeva quando mi ha mandato le foto. No, poi chiedevo nuovo. Poi meno male Gianni mi ha venduto i suoi coperchi. Io l'ho rifatto, ho messo a nuovo la mascherina e qualche pomello. Adesso è fiammante. Ma se stanno scaldando questi qua. Devono scaldare, però si sente la ventola che sta girando. No, io non la sento la ventola, insomma. Oh, non funziona la mia. Oh, vabbè che sono mezzogiorno. Per sentirla ti devi avvicinare, ti devi. Ma non stai parlando. Cazzo, c'è una ventola e non lo raffredda. Io la metto su una ventola esternamente sopra a raffreddare, lo so. Fatti così. Fai così, Gian del Movetto. Oh, a me mi segna il 23 canale, il numero 23 canale, insomma. Che a te ti segna il 23? Se vede il coso, la frequenza, 27,255 però tu. Il 27,255, ma sul genere sotto a destra. C'è il numero 23, io sono il numero 23. Ah, io sono numero 1, canale 1. Ma ogni tanto cambia questi numeri, capito? Certe volte anche a me lo fa, certe volte mette anche un altro numero, boh. Guarda come lei mi ha spostato. Quelli quando cambi cosa si spostano. Infatti. E questi si possono memorizzare in certi canali, no? Sì. Se lo vuole può mettere sull'1, 2, 3, 4. Quello è cosa della memoria. Se lo vuoi sull'1, sul 2, sul 3. Ecco, quello che già si possono memorizzare i canali su questa parete. Vuol dire che c'è memorizzato sul 23. Ma da voi magari mi sposto magari sul 10, torno sul 23 magari e mi trovo un altro numero, come ti spiega? Deve essere che lo sposti, ce lo porti in un altro numero, ce lo porti. Si possono memorizzare in qualsiasi numero che vuoi. Vuol dire che ce l'hai, ma su VFO, ce l'hai. Aspetta che guardo. No, è il canale Memo c'è scritto. Memo 23. Sto dicendo se ce l'hai su VFO o la D. Questo, cazzo. No, ce n'è, dire ne ho. Qua c'è scritto, c'è così. Memo 23, S, canale 23. Boo. Ma su dove c'è 60 dB? Non c'è 60 dB, c'è V, O, A. No, è 60 dB. No, c'è una sigla il K, boh. Sul K ce l'ha. Io ce l'ho sulla A, ce l'ho. Il numero giusto. Che numero c'è tu? Io è A, VFO A. Tu ce l'hai sulla K. Non me ne ha messo più, prima lo mangiava, adesso ho perso anche, vabbè, dato che l'importanza funziona bene così, dato. Andava bene, lo stesso. Se funziona è già andava bene. E allora, o A o B, cazzo, cani con prende il volo, c'è cosa. E se non offre questi, è la faccenda che dà ragione. No, io non lo sposto da dove lo lascio così. Infatti, ma prima ce l'avevo precisa il tuo, ti ricordi che l'avevo messo precisa il tuo? Poi adesso invece mi trovo S4, poi segua AMF, poi segua ancora NR, poi segua ancora NRL, ti puoi immaginare? Ce l'hai spostato, ce l'hai. Ci hanno spostato e mai hanno fatto nulla, passano così. E che non tocca, so perciò c'hai già fugliato lui, per carità. E Luca che apparecchio c'ha? Luca, che apparecchio hai tu? Perché sei portato. Oh, vabbè, pari giuso. Capito a me la faccenda. Da, funziona bene ugualmente così. E per cui non lo tocco là. Se sono ascoltato non fa nulla. E per cui questo dovrebbe essere forti in banda, dovrebbe essere forti, non lo so. Io ce l'ho nel canale 1 e tu ce l'hai nel canale 23, memorizzato. No, io per ce l'ho sempre memorizzato sul 23, boh. Mi sposto, però arrivo a 27, 55 e si blocca e si ferma. Se vai a cercarlo si ferma lì. Oppure lo sposto e lo metto su 10 se voglio ascoltare su 10, capito? Su 27 0 75. Sì, no, se devi metterti 27 0 75 no. Ce lo devo messo a fare memorizzato. No, non è memorizzato il mio to. Il 10 non è memorizzato. Lo devo cercare con la sintonia, capito? Vabbè. Io l'ho memorizzato sull'uno, l'ho memorizzato. Oh. Vabbè. Costa poco a cercarlo, capito? Una volta che sai le frequenze, il numero delle frequenze, sei tranquillo, capito? Magari prima i 40 canali sapevo a memoria, ma non me la metto dico come sono i 40 canali, capito? Magari 40 canali sì, ma da 1 a 40 tutte le frequenze non mi ricordo come sono, quali sono, capito? I numeri. Ma non reagiri, ti dà le frequenze, ti dà. Vabbè, cazzo, ma sto dicendo, se tu mi dici passa a canale qua, per dire a canale 38. Io non mi ricordo più che frequenza è, capito? Allora devo guardare la tabella, c'ho la tabella e lo trovo subito, capito? Cosa? Sto cercando, ma devi rimanere, devo segnare, non è il numero uno, e lo trovo subito. Vabbè, dai, Giomari, io chiudo che devo uscire. Alla prossima, Giomari, quando mi fate sentire non c'è problema, chiama. Ho capito, non ho capito. Ho detto, quando vuoi, non c'è problema, chiama. Va bene, ciao, ci devi chiudere, buon proseguimento. Vai, Tom. Ciao, Lu, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao. Buon divertimento. Sì, guarda. Ciao, Giovanni, ciao a tutti. Ascoltalo, che apparecchio hai usato? Un 3009. Ah, 6009, quello con disco azzurro? 3009, Superstar, no, Charles Smith questo qua. È un baracchino normalissimo. Ah, ho capito qual è, ok. Vabbè, d'accordo, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao. Allora, capito come la faccenda. Ma si possono memorizzare da 1 a 99, così si possono memorizzare direttamente. Lo metti su qualsiasi, sulla A mi sembra che siano 10, poi sulla B sono altre 10, 99 sono. Ma sto dicendo, hai visto i Kevin, no? Che si possono memorizzare da 1 a 99. E tu magari giri la maloppa e vai sui canali, capito? 1, 2, 3, fino ad arrivare a 99. Questo si può memorizzare così. Si può fare anche così. Non cerchi come memorizzi. Lo cerchi direttamente. Ecco, quello volevo sapere. E tu ce l'hai il manuale in italiano? Che ce l'ho, Gian Maria. Portano la bassa, mezza al macello, ma gli abilaggi. Magari, boh. Mi sembra difficile questa memorizzare il canale, capito? Mentre su cable su 440 e su 450 riuscivo a farlo benissimo, ormai avevo preso la mano ed era facilissimo memorizzare, magari sarà facilissimo anche qua, boh. Deve cercare il coso dei numeri con il tasto, deve cercare e trovarlo, ecco cosa è. Dai, lasciamo così che è meglio già. Ho rotto. Allora, mi ha toccato il tasto dove c'è M canali. E sono andato sul C2. Sono andato. Oh, sul C2, eh. È tutto aperto, ma io non lascio più pazienza, non mi tocca nemmeno. Dai, si vecchia. Tanto, trovo che i canali già li trovo ugualmente, dai. Se giri a destra ti dà il 2, se giri a sinistra ti dà C1, C2, ti dà. Ma devi abbassare il menu. No, ce l'hai il tastino, non tastino, sotto al volume, c'è l'altra manopolina, la piccola. Se giri quella e ti dà l'1, 2, 3. Prova a vedere, ho fatto. Ho preso quella manettola di sotto e mi ha cambiato subito la frequenza. La frequenza non la tocca, ti cambia il numero, ti cambia. Vedi, C2, 1, 2, 3, 4, ha messo la scrittura a blanchi. Yes. Ecco qua, siamo rimessi a posto. Adesso ti sento male però, tu come vai? Cos'hai toccato, ti sento fuori? No, perché l'avevo spostato io. Ma se, già sei la M già, perché ti sento strano, Come sei fuori frequenza? Adesso è come ha toccato l'affare, ecco cosa è. No, ma è già ritornato a posto suo. Mi sento strano, fuori frequenza ti sento, prima andava bene, adesso ti sento fuori. Cazzo, boh. Fa vedere adesso. Ma tu male mi senti a me? No, tu sei giusto. Adesso è che mi ha toccato che ha spostato i numeri, l'ha portato un po' appena appena fuori frequenza, ma adesso l'ho rimesso a posto. No, hai passato qualcosa, dai, adesso non ti sento bene, ecco, ti sento fuori, non sei preciso, ecco, ti capisco, però sei fuori, capito? Cosa hai combinato? Vado a vedere adesso. Il segnale è sempre lo stesso, sei la radio, capito? Sembri pare che sei fuori, capito? Tutto lì. Io sono 27, 255, boh. Adesso Gio Maria. Ma sei la M già, quanto ci sei la M? La M. No. Ma sto comparendo anche la voce tu, Adesso c'è anche basso pure. Non so cosa è successo. Che cosa è successo, sì. Forse hai toccato qualche cosa e sei fuori, va. Ti sento fuori. Io ripeto solo come era prima. 27, 255. Quella sigla che ti ho detto è solo S4, ANF, NR, NRL. Così che so come era prima, quando l'hai acceso. Però ti sentivo bene, adesso ti sento come sei fuori. Non ho toccato nulla del coso, ho toccato soltanto la manopolina del coso del canale, la mobilizzazione del canale. Hanno aggiudicato altro. Ma tu mi stai ascoltando bene? Ti ascolto benissimo, chiaro. Io non ti sento bene, cosa mi dici? Mi sembra una cosa strana che stavi uscendo perfettamente. E adesso, come hai toccato con la manopolina, è come se sei fuori, fuori frequenza. Il segnale è buono, però la radio è sempre fuori frequenza. Va bene adesso. Ho detto come hai toccato con la manopolina, si è andato fuori frequenza. Si è messo a posto adesso. Tu hai toccato la manopolina, E tu ci avevi guardato uno, due, tre, io non l'ho toccata, no. C'ho sempre come ero prima. E io prima ti sentivo bene, se ti hai toccato una manopolina sotto il volume, forse per quello. Se con la manopolina l'ho spostata appena, e se deve essere spostata qualche cosa. Prova a fare un passaggio. Prova, vabbè, uno, due, tre, prova. Non lo so, qualcosa deve essere che ha spostato. Allora tu? E Giovanni? No, sei sempre lo stesso. Aspetta che provo, fai un passaggio lungo che provo a vedere un po', ma non dipende da me, capito? Perché io sono come sono come prima, non ho toccato niente. Non lo so, Giovanni, adesso si è spostata qualcosa, No, ho detto prova, guarda se sei in FM. Adesso l'ho passato in FM, però adesso ho messo in M. Si è mossa qualcosa, no? No, non è come prima, cioè mi sento sempre strano. Ma è strano, vero, cazzo. E prima ti sentivo bene, perfetto. E adesso ti sento come sei fuori frequenza, tutto lì, cazzo. Riesco a capirti perché hai intuito così, Oh, Giovanni, non lo so, se deve essere spostata qualcosa. Già si rimetterà a posto, se si può pugnare pure. Prova a passare su 10, a vedere un po'. Sare cosa? Prova a passare su 27.075 a vedere un po', se non c'è nessuno. È la stessa cosa, vedi un po', E dipende da te, dipende da te però, perché io sono perfetto, ci sono, sì. Aspetta, non aspetta che... Aspetta un attimino, Aspetta che passo su 23, un attimino, Corre, otto passa su 23, passa, qua no, vabbè, passa su 23. Corre. Sono Giovanni. Dimmi. Sono andato, ma sto andando a fare su 2.75. Adesso sei perfetto, adesso sei perfetto, vedi un po' c'era qualche cosa da te che non andava, adesso ti sento bene. Voglio se portare tutto come l'ho portato a 27.075. Adesso 25 ti sentivo male ugualmente. Invece adesso ti sento perfettamente. Voglio se portare tutto. Certo. Poi intanto me la fremba io. Intanto non è poco budelli. È poco budelli. È pronto per punire... A me pare che buon curare, ma è un buon a casa. Hai riuscito. Dai, non me lo dici, tanto chiudiamo, ci sentiremo domani se coincide. Buon proseguimento, grazie alla chiacchierata, già sei messo a posto, tranquillo, ok, adesso ti sento perfetto. Ok, Giovanni, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Giovanni.